le note dolenti oggi della direzione investigativa antimafia, presidente Buzzetti, che riguarda l'allarme lanciato sull''Ndrangheta e l'interazione con ambienti imprenditoriali lombardi, e in particolare l'allarme per quanto riguarda l'Expo. Chiede, dice la DIA, serve un razionale programma di prevenzione che consenta di bloccare le possibili infiltrazioni in previsione delle opere previste per l'Expo 2015, e parla espressamente, insomma, di imprese che fanno direttamente riferimento alle organizzazioni criminali, a questa organizzazione criminale. Come la vedete, cosa pensate di fare? No, la vediamo che hanno ragione, bisogna assolutamente, la crisi sta peggiorando, come dire, sta aumentando il pericolo, perché naturalmente la possibilità di acquisire aziende, la possibilità di penetrare profondamente nel tessuto economico è maggiore in un momento di difficoltà che non in un momento in cui le cose vadano bene, quindi è correttissimo intervenire in maniera preventiva sicuramente sull'Expo e sicuramente in generale su tutto il mondo, ovviamente parlando di edilizia, ovviamente laddove in difesa delle imprese, evitando e acquisti e intervenendo nel campo degli appalti o comunque dei lavori anche privati. Come fare? Noi ne abbiamo suggerite tante nel tempo, come le white list, cioè le liste dei fornitori più a rischio nelle prefetture, come diciamo anche il concetto condiviso, purtroppo è stato mal messo in campo, che è quello della tracciabilità finanziaria, che è un concetto giusto, è stato messo male in campo perché ad agosto è uscita la legge senza linee guida applicative, ha creato moltissimo disagio fra di noi, lo dico con grande chiarezza. Peraltro il Consiglio dei Ministri ha varato delle spiegazioni importanti, Presidente, con un decreto legge proprio l'altro giorno, e questo lentamente porterà a normalizzare la situazione.